meno bene, addormentato sì. Meno bene, addormentato sì. Io che si dà, dove? Tu dormite sì. E tu addormentata sì. Oh. Sono meglio, sono meglio. Sei meglio, sei meglio. E beh, Luca. Luca, da sei in tournée. In tournée, ciao Gio Marino. Ehi. Era sì, il tornello. E beh, Gio Marino, a ne fa freddo. Oh, dentro casa si sta bene, va. E beh, dentro casa si fa pura, ve la giazza. Addirittura, la giazza. Vai, non viene freddo, va. E vabbè, c'hai il riscaldamento attaccato. E beh, anche tu pura, Iri. E io sono pura, pura. Oh, e c'è freddo. È un po' di freddo. Freddo, freddo, freddo. E dove sei, dove sei? Ehi, fuori dalla stanza, capito, dunque, nel poggiolo. Ah, allora sei in girella oggi, no? Ehi, è un po' di casa, però. Ah, credo che fossi pura. No, no, fuori, fuori, fuori nel poggiolo di casa. Ho capito. Cosa hai combinato oggi? Nulla, cosa vuoi fare? Anzi, sono andato, ero all'INA. Qualche visita così è. Eh beh, lui ha mezz'ora per fare questa cosa a casa. Purtroppo, bisogna anche andare lì, per la salute si fa quelle altre. Eh beh, giustamente. Vabbè, ci sentiamo dopo, Giuseppe, vai, mi sto facendo questo. Ciao, ciao. Ciao, Mari. Ehi, tu, Rufo, non mi tassi, qua ci facciamo sì. Ciao, Mari. Cosa c'è? Cosa c'è? Verrappi. Gufo, lo vuoi un tosto? No, adesso mi mangio la metà della pesca. Che tempo di messi qua? No, la pesca della pasta. Vabbè. E allora? E un frigorifero al fresco. Buono, su tostami. Buono, buono. Fa buono. Io Maria deve essere in campagna. Che? Maria! Oh! Tu che stati? Lui si è avviato in carina! E allora lui è giovane e fresco e forte! E noi siamo vecchi, vero? Allora, cucinare qui! E fare lo fresco, fresco, freschello! Vabbè! E allora? Vedi come sei, me la fai? Ma dormita sì. No, c'ho la sonno. Un po' di compagnia. E faccio un danno se dormite. Faccio compagnia io. No, meglio Luca. Ah, ci teniamo per mano, poco a poco. E non c'è Antonello. Facciamo le gocciole. Telefono Antonello. Antonello non mi piace, è peloso. No, che si è depilato con un rasoio bravo. Ah no, è pelosa. E adesso è liscia liscia, ci ha messo la leocrema. Ma a me non mi piace liscia liscia, lo voglio peloso. E l'impongo e si impera subito. Mamma. Ehi, aspetta che mi mangio quella pesca. Non penso anche a me. Tu stai dicendo mangiami, mangiami. Buona, tosse di sacca. E me, buona quel tosse, eh. Mamma mia. Ci ho messo maionese, due fette di prosciutto e una fetta di fontina. Maria, un hamburger. Buona bene. La crema. Vabbè. all'interno c'è la crema buona, Ma non sono come quelle che vendo vicino a casa, no? C'è un bel grandi, ma un bel grandi. È buone, è pieno di crema dentro. Va bene. Questa l'ha comprata nella pasticceria Sardinia. E un'altra pasticceria. Sardinia, Kappa, Lium. Che ora tu via la glicemia? Prima del pranzo 137. Io ieri me l'ho misurata, grazie, ieri notte che ho finito di cenare, sono arrivato a casa 130. Non è alta la appena, ma tu non sei diabetico, dipende da quello che mangi, però siccome non sei diabetico magari hai appena cenato e poi ti ritorna a giusta, capito? Ci mette molto il pancreas. Buona resa! Ho tutte le labbra succherate. Perché io ho le noccioline? Adesso ce li ho dolci. Che mi spese mai stavessi così da Marco. Bocellina. È andata a fare l'allenamento del balletto. Tu lo andi? In campagna a quest'ora. Io non lo sento più, in campagna mi aveva detto doveva scendere, si navigava, già sembrava, ne aveva voglia stamattina. Ah, ho capito. Ebbe buona l'età basta. Che mezz'ora di vita, la dico tu, sei mosso non vira più, è la grande. Vabbè. Fresca. Ma poi avevo pure un coso, avevo, va, si chiama, lo spumante. No, dopo mi bevo un bicchiere di ghetto. Ah, mi sembrano chiusi i muscoli. Allora. Metto una crema di whisky. No, che il whisky fa di male. Un bel tazzone di ghetto di lemo, quello già mi piace, fresco. Dopo lo prendo dal frigo. Che c'è lui? Fa di male, ha detto la crema di whisky, quando non venne. Ma mi sto bevendo un buon rosso, buono, eh? Buono. Mezzo bicchiere. E poi anche dopo un altro mezzo bicchiere, dai, siamo pazzi mari. Ah, io un bicchiere a pranzo e una cena del rosso me lo bevo sempre. Pure non sto bevendo più. Però a pranzo e a cena sì. Ciao a tutti, buonasera. Ciao Claudio. Vabbè, dipende, io molte volte manco nel tocco. Io, la padrona già me lo dà un po', se non niente. Eva, naturale. Fasi bene, non le devi bere tu di quella roba lì, non devi mangiare neanche dolci. E il dolcetto me l'ho mangiato di nascosto adesso, facci non bere. Ah, usci, allora, non so se la volta già che ti intenghi, ti intercetta. Vediamo che non si lamenta, chi vede al frigorifero. Se non è che glielo cascetta Luca. Oh, cascetta Luca, Luca, no? Tu dili che se la mangia da Lugani, era stato un frigo a becco. Ti dico che non sappi cosa va la mangia, l'ha già subita. E si era sbralata. Allora, se tutti li inventi che... Ui, ui, ui, va bene, dai. A dopo, ragazzi, che anch'io sto rientrando, mi ero in campagna, bellissima giornata. Allora, mi lavo, do la mangiare a Ugani e poi di nuovo devo uscire col cane. A studiare, a Migosta, Messi. Ciao, grazie, sentiamo dopo. Ciao, Lucarie. Ciao, Claudio. A più tardi. No, io problemi di scendere, lo giù non ne ho. Mi metto i panni così non mi rompere i cazzi. Non ha già avuto panni per Filippo. Va l'auguro un bel manno. Dai cinesi li ho comprati. Già li vendono. Tutte le misure. Vai, grazie, il cane è fatto per camminare, per uscire. Però se poi li rubano. Era con me, era in campagna, quindi già è bello stanco, aggiungato, vatto. Però adesso le do a mangiare e poi verso le 8 lo riporto, capito? Va bene, dai, ci aggiorniamo. Ciao a tutti. Ehi, hey, a più tardi, ciao, ciao. Luca, ma mangiando sempre sta. Ciao, Claudio. No, ma stavo mangiando un paio di arachidi, dai. Mi sa che le giornate ancora sono un po' così. Comunque, per Pasquetta, tempo permettendo, poi andiamo a Bosa, adesso vediamo. A Bosa? Sì, da dove mi conviene passare, Cla? Dammi una dritta. Lu, per me ti conviene fare Alghero. Alghero Bosa è molto vicino, se fai altre strade è molto più distante. D'Alghero? Vabbè, allora farò da Alghero. Quanti chilometri sono? No, è vicino, se passi lì da Alghero è vicino. Lì per andare alla Speranza, capito? Dopo la spiaggia grande che c'è... Quanto saranno? 5-6 km c'è Bosa. Ce ne sono cartelloni, sì, direzioni dove ti indica la strada? Sì. Certo che c'è. L'uscita di Alghero praticamente dove c'è la passeggiata lì. Da lì. Dopo l'hotel Calabona c'è il cartello Bosa. Capito? Prendi quella strada e ti porta direttamente dentro Bosa, se no devi fare Macomer ed è troppo lunga. Infatti io volevo passare dalle gallerie. E dove va a Macomer devi fa? Devi andare prima a Macomer, poi da Macomer devi fare su un'isindì a Bosa. Ehi, cosa ridda sì? È Alghero, entra Alghero, scendi, c'è la passeggiata, dove ci sono, come si chiama quella passeggiata? Quella passeggiata lì, costeggi la passeggiata, in uscita ti vedi un hotel, l'hotel Calabona. Dopo l'hotel Calabona c'è il cartello Bosa. Già metto il Google Maps. Sì. No, ma non ce la sbagliare lui. Se no è troppo lunga, capito? Troppo lunga se passi da Macomer, non ti conviene. Anche la strada è anche brutta. Invece d'Alghero è tutta panoramica, è bellissima, capito? Vanno tutti lì a... Quando vanno in moto, io andavo in moto, è bellissima quella strada. Un po' di curve ci sono, però è panoramica, capito? Costeggia al mare, mi. Adesso vediamo, dai, stiamo permettendo, ma quanto ho capito fa bello. Ma giusto voglio per cambiare. Io volevo andare alla Sinara, ma. No, Lu, la Sinara è venuta ancora. Non c'è niente ancora, la Sinara maggio. A maggio, capito, ci puoi andare, ma adesso no. Non fa. Vabbè, dai, che andiamo a farmi la doccia. Ci sentiamo più tardi se coincide, se no un saluto a tutti. Ciao. Ciao, la schiena qua. No, e allora posso lavare a Filippo e fare l'ugni. Tu non hai ugni. Già, ti mando una passola con l'ugni, dai. Con i fucchetti. Con l'uncino. Tu parli in occhio, allucinante. Sempre qua, allucinante. Ma con grazie non arrivi così. Vabbè, lui io sto usando quella grande, amatoriale, l'antenna esterna. Ogni tanto vi ascolto, vi saluto così. Non agio io di Gicafugi, a Rugiari. Questa è quella grande, ti avevo mandato la foto. E l'antenna è quella grande. Giusto così per salutarvi, niente di che. E anzi, sono a potenza minima minima. Se consideri questa bestia c'ha 100 watt in UHF, immaginate già di due cosa può fare. Ciao Rogarie, un abbraccio. Ciao, grazie a, e ciao anche a quelli che stanno ascoltando. Già ci sentiamo, ciao. Ciao Claudio, alla prossima. Luca, ti conviene che faccia adesso Claudio, se vai al ghetto. Alla finale non va andare, tanto non venuta. Ah va. Va, passi dal ghetto, vai al ghetto, poi gira a sinistra, fai il lungomare e trovi l'incrocio per andare a Bosa e fai tutta la costa, ti vedi tutto il panorama, tutto il mare. È bellissimo. Sì, ce l'ha fatto. Ripeto, tempo permettendo, se fate tempo vero ma quando è. Ma dovrebbe mettere bello per far questo. Alla finale non va andare, ci pacca giù. Cara l'olive. Anche la signora lì, noi il Porto Dottore siamo partiti, scatto ogni orata, allucinante. Il mare lì è un acquario, so che non puoi fare niente, non puoi buttare pezzi di pane, nulla, cavolo, lì già li prendi i pesci, altro che, cali una canna a pesca col coso, con il, come si chiama, con il, vabbè, quello c'è la gala, il coso. Ah? Galleggiante, per lui va il nome. Ti va a beffa, solo che lì non le puoi toccare. ma sono troppo con i patatini, non è che ha gusti assai manno, eh. Sto dicendo lì, è pieno di pesce, li prendi con le mani, basta a schiaffetti sull'acqua, no, con l'acqua al ginocchio, guarda, guarda, basta con le mani così, brrr, mi 3.000 pesci tutti sono a pesce, e poi senti di là che li vedi. E già lo so, già ci siamo andati, dai. La buccia c'era anche caldo. L'anno passato, l'anno scorso, Mari, sì? 2 anni fa. Stava già lì una picchiata nel caldo, mi ho messo praticamente il coso, la crema, no? Per non bruciarti. Inizia ad attaccarmi i moschine, api e quanto è. Tu cosa va? Giù non mi rinnanto, vai a far Napoli, va. Giulio al telefono mi ha detto che è andato 3 volte, ha detto che è bello, vero Malgiù? Malgiulio! Bello, però dipende da dove vai! Luca Malgiulio! Tu bel po' giù, fo bianco mi! Questi bomboletti per magazzino! Tu lo posso io, mi pongo la mano da reddo. Tu posso oggi un po' bianco, io mangio dei disastri. Che ne assomigli un bel, come grossetta ci sei, A panza si gusti, ma te, dai, ti assomigli un bel a Mal Giulio. Mi invita la foto a Giubbotto su Facebook. Ma non faccio la panza, ma te la doia. Panza di voi, farò. Col ciuffetto come quel gay, già si sta bene, già io me l'avevo fatto, Luca, fatelo! L'ho visto una rivista con il suo fidanzato, non l'hai visto? Là, qua mi dicono di passare da Macomer più vicino. Da Alghero molto bello il panorama, dipende da dove ti piace passare. Da Alghero comunque, così vedi tutto il panorama. Ma com'è? E dopo il passaggio a livello svolti a sinistra, no, a destra, e trovi un paesello, Suni mi sembra che si chiama. Dopo di quello che hai fatto tutto il rettilineo, trovi le curve e scendi a Bosa. Ma è più bello dalla panoramica, vedi tutto il mare, bello bene. E allora, se poi al ritorno vuoi passare da Macomer, sali giù a Suni. Poi venendo, entri per Posto Maggiore, vai a Posto Maggiore, scendi a Patria. A Patria e vai da Zia Maria a mangiare all'agriturismo. Buon arrivo in Romagna. Sempre quella linea facevo apposta per andare a Patria a mangiare, Luca. Saluto sì. No, sono qua, ragazzi, che sto leggendo qua, mi stavo scrivendo. Aspetta che vado in ufficio. Luca. Eia. Un po' male arrivi da me, un po' flusciato. Un po'? Prova. Come segnale, buono. Fai un passaggio. Vado in questo passaggio, 1, 2, 3, prova. Ma il segnale è alto, però la radio un po' di fondo si sente, sotto fondo, dai. Ma ti ascolto bene, dai. Quindi ci butti via tutto. Perché sono in una stanza e vuoto, ok. Comunque buonasera Luca, c'è anche Graziano, ho sentito qualche bussata, avanti. Permesso? Avanti, buonasera Bacchisio. Ciao Luca, buonasera, buonasera Marino, buonasera anche agli altri che stanno all'ascolto. Bacchisio da quella parte là, avanti Marino. Ciao Bacchisio, anch'io sto entrando, guarda. Stavo facendo un controllo da Luca, bene. C'è un po' di QRM, io ti ascolto un po' di QRM, Bacchisio, comunque ti ascolto lo stesso, benissimo. Te lo passo e fai girare per l'isola. Ma QRM qua non ce n'è, ce n'è alle parti tue, qua QRM non ce n'è. Arrivi pulito, però la modulazione mi occupa molto, Non so, perché sono, non lo so, sono dentro casa, Cos'è che occupa la modulazione oppure ribomba? No, adesso era più chiaro, forse lontano poco fa dal microfono, così Luca. Sì, fa un passaggio, Mari. Guarda in questo passaggio, 1, 2, 3, prova, avanti. Ma il segnale c'è perché è abbastanza forte, deve arrivi da me un po' con i... diciamo un po' di sottofondo, dai, non è pulita, ma comunque ti ascolto abbastanza bene, dai. Ok, già va bene, dai. Bene, Graziano dall'ufficio, sei uscito? No, ho capito, non ero distratto, Marino, ripeti. Poi c'è Graziano che è andato in ufficio un attimino, volevo sapere se sta terminato. Graziano? Sì, Graziano, sono in ufficio, avanti, Bacchi. Sì, Graziano non c'è Graziano. Che fine ha fatto Graziano Luca? Timbrare è andato in ufficio e caspita che lui deve andare sempre. Capito Marini? In ufficio e... È un ufficio particolare, Bacchini, è un ufficio particolare, dai. Bene, non lo so, la dovevo spostare stasera con l'affare, invece non ho toccato nulla, non mi pulle, non anche proprio la rivanuta. Ma male mi ascolti perché è Marini. C'è un po' di quell'area, però la modulazione è chiarissima, dai. Boh, la radio mia allora sta andando a cucinarsi. Già va bene, avanti Luca. Sì, dai, io scusate, mi assento 10 minuti, un quarto d'ora, anche 20 minuti, dai. A frappè, ferma che ne ascolto. Ok, benissimo Luca, benissimo, avanti Bacchi. Ok Luca, benissimo, ci sentiamo fra un po' allora, buon assentamento. Ci sentiamo. E allora Marino, come te la va? Ero su a casa, sono sceso in questo momento, ho sentito Graziano e a Luca che è entrato. Ma non mi stavo preparando la roba per domani per lavorare. Io la roba la cambio ogni giorno, capito? Poi oggi si è fatta tutta una cacca, sia il giubbotto sia il pai. Stava spostando, stavo al bagno insieme al mio collega, caricando una moto, in silenzio c'era ruggine. Acqua con ruggine, mi sono tutto cagato, figurati. Sicuro, morì. Oh, yeah. Ettore, penna di squalo, non c'è. No, squalo, non so perché io sono appena entrato, Bacchi. No, non c'è la squalo, c'è solo Graziano e Luca, tutto qua. Adesso è entrato, pensavo uscire da prima. Capito. Allora, penna di squalo, deve essere ancora in giro. Ce l'ho a Olbia perché doveva partire la figlia oggi. Proprio io la figlia. Probabile sia Olbia. Non so se era uscito Gio Maria stasera, non so se sei Gio Maria. Io mezzogiorno pensavo di che passassi, invece nulla, non si è passata, sei uscito tardi. Devo fare una commissione, quando sono uscito sono stato per mia moglie che era la madre. E fa una cosa all'altra, sei stata alla una, dunque mi sono uscito a casa direttamente, capito? Ecco. Capito. Graziano! Come, non ho capito, Bacchi, scusa. Aspetta, ho chiamato Graziano, però non si asciala. Se non sbaglio in bagno, dove è in ufficio là. Si deve portare la radio in bagno lui, deve mettere un microfono in bagno. Sicuramente, Graziano! Bene, caspita, c'è una luce qua fuori, pazzesca. Se ne andavo con l'antenna nuova. Ah Marie, con la nuova sei o con la verticale? Senti, ma tagliamo un po' di erba, dai, adesso non mi conviene, sennò qua inizia a piovere e mi cresce il dubbio. Hai trovato la posizione buona? oppure stasera, boh, stasera è l'occhio la frequenza. Devo toccare, magari lascio già che se mi stai che il segnale buono lascio così, lo lascio. Poi la suggerita sta costruita e la stocca appena appena, ma se mi stai che già va bene lo lascio così, non faccio nulla. Magari la puoi portare qualche cosa più in su, capito? Qualche cosa sta più in su magari, oppure farla ruotare e trovare una posizione migliore. Adesso vediamo, nel giorno che c'è la giornata, mi prendo una spezzone, magari chiama qualcuno e faccio spostandola e chiedo il controllo, capito? Comincio a salire, scendere, salire, scendere. Bisogna fare così, centrare, centrare, capito? Ehi, ehi, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare. Oh, ancora è presto, Non so, stanno le 6:30, boh, non lo so, non sono neanche orologio qua vicino. Ancora è presto, avanti da qui. Ehi, ehi, ehi, non c'è nessuno. Gio Maria non si è visto, deve essere andato in campagna. Capito? Deve essere in campagna. Guarda, Gio Maria se ne ha accorto e stasera è tratto. È entrato, non so chi c'era, ma l'ho sentito così due o tre parole e basta. E guarda che in alto adesso l'antenna roba qui, non dico che è a livello di tetto, ma poco manca, è molto in alto comunque. No, aspetta, cambio coso auricolare a vedere. Ok. Andiamo adesso a vedere. Adesso è più bella come... una modulazione più pulita, diciamo, là. Sì, capivo. No, questi auricolari sono un casino, sono... A momenti funzionano bene, a momenti funzionano male. C'è da prendere e schiacciarli. Capito. E per pulirla bisogna chiamare l'attore Penna. Appena bisogna chiamare per pulirlo la frequenza, che lui è bravo. Signor Penna! E magari in ascolto non vuole entrare, sai, lui è vergognoso. Non c'è, è ancora in viaggio. Si è attaccato l'apparecchio in viaggio, boh, fare compagnia un po'. Pure in macchina, con quell'antennino che ti ho detto, quando viaggia non riceve. Riceve solo la stazione ferma. Ah, viaggiando negativo non sente nulla. No, in viaggio non riceve. Riceve solo se sei fermo. Non sa perché. No, la prima cosa che sente, è proprio così viaggiando che ti fa più compagnia. Da fermo o da vai? Viaggiando dovrebbe essere a punti zero e punti buoni. Ma dice lui non sente nulla, zero riporto zero, solo QRM e basta. Ma no, vuol dire c'è qualcosa, Battista, c'è qualcosa, boh, è strano, è come io non stacco l'antenna, non sto in macchina, sto guidando e non sento nulla, ma sta scherzando. No, niente, perché dice che ha provato già una volta, la strada facendo, accendere, nulla, zero riporto zero, se si ferma riceve bene. Infatti io l'ho sentito da fermo, arriva forte da fermo, però in movimento non l'ho sentito. O è la frequenza, non lo so, non posso dire niente. Probabilmente sia la frequenza, probabilmente sia l'antenna. Antenna, uno stecchino. Tu prendi due stessi cadenti, li metti uno sopra l'altro, quello è l'altezza dell'antenna. E probabilmente sia anche l'antenna. Ci siamo legati solo per... che movimento lo fermo, ma... mi sembra un po' strano. Strana l'antenna, piccolina, è bella vederla, è ben fatta. Con la calamitina sua, è perfettissima. Solo che lui dice non riceve, ma mi sembra un po' strano che non riceva in viaggio. Certo, se vai a 100, a 150 no, ma andando sui 40, 50, 60 dovrebbe ricevere. Ti sento, Bacchi, buonasera. Anche a 100, Bacchi, anche a 100 dovrebbe ricevere. O è l'antenna o è la frequenza, questa qua è un pochettino strana, capisci? Sì, aspetta che uno sia tutto cazzicato. Buonasera, avanti con la buonasera. Cosa è successo, Bacchi? Buonasera a Chiamarino, che non lo sento. E stasera ti sento, Gogo mio, come mai, Bacchì? No, voi non lo so, io sono sempre allo stesso posto, Gio Marì. Buonasera, sempre allo stesso posto. Non lo so cosa è successo. Non ho cambiato niente, non ho aggiunto niente, non ho tolto niente. Quello che c'era ieri c'è oggi. Lo strano è, tu hai il segnale per la radio è fortissima, fa bene, è una cannonata adesso. Lo strano proprio è. E se no Gogomino dietro mi bacchi, dove ti ho detto non ti sentivo mai, oggi ti sento. Oh Gian Marino, anche io ti sento fortissimo, ti sento fortissimo. E a Marino lo senti? No, a Marino non lo sento perché sono Gogomino dentro casa dietro, capito? Ah, dietro Gogomino sì, ma Gian Maria, Marino ti ascolta, vediamo un po'. Marino ascolta Gian Maria. No, a tratti stai uscendo, bacchi adesso, eh. Anche lei che si è accesa, figurati. Non l'ascoltano. Col gomino, col gomino dietro, capito? A parte del cortile. Lo so, ma io non l'ascolto, neanche lei che sta accendo, figurati. Per quello, Ma arriva fortissimo, mi sta arrivando tutto sparato stasera. Ogni tanto manchi però, Bacchì, ogni tanto manchi come radio, Allora è questione di propagazione, Gian Marì. Questione di propagazione. Addirittura. La propagazione qua ci deve essere, però ya ti sento, dai. Ok, qualche volta manchi, però ya ti sento benissimo. Salutamelo al Marino che io non lo sento, dopo accendo, metto la antenna, dai. Marino, Gian Maria ti saluta, non ti sente. Nulla, zero riporto zero. Ma non la so neanche io, Bacchino, anche io, guarda, non sta accendo neanche letti, proprio zero riporto zero, neanche io ascolto. Adesso riprende con l'altra antenna a vedere un po' se lo ascolti. Sì, aspettiamo con la antenna, vediamo se Graziano ha terminato dall'ufficio. Graziano? Graziano sta cucinando. Boh, stasera Gian Maria mi sente bene anche dietro, Marì, e non ho combinato niente, non ho fatto proprio un piffero. Mi ascolta anche dietro, deve essere serata buona. E a giorni, a giorni, capisco, già è strana frequenza, ma è a giorni, tutto qua, è come l'altra, il cioè io, che quando c'è un po' di umido, ovviamente, mi crea un po' di problemi, capisco, è a giorni. E deve essere oggi giornata di propagazione, giornata che si viaggia, capito, e così sì. E signor Coso, signor Squalo, non si è visto stasera, non si è sentito. Sono scorso la Ubbia non adesso. Deve essere a pescare uccelli. Probabile. Gian Marì. Adesso attaccata alla tua antenna. Come mi senti adesso? Più bene? Lo stesso Gian Marì, uguale, non cambiamo nulla. Nulla. È uguale come il gommino sei adesso. Adesso dovrebbe ascoltare Marino anche. Marino. Sì, adesso ascolto come sempre, dai, un po' che chiaro, avanti Gian Marì. Buonasera Marì, ben sentito. È una cosa strana che stasera io, Bacchise, lo sento con Gommino. Adesso ho cambiato l'antenna. Però con Gommino lo sentivo benissimo, Ho detto strano, cosa ha combinato? E invece non ho fatto niente e lo sento bene, boh, strano, Gian Marì, è la frequenza, senza da fare, è la frequenza, oggi lo sento bene, domani lo senti male, è la frequenza, poi è un po' strano, sì, avanti Bacchì. Sì, è questione di propagazione, ho penso, perché ieri non mi ascoltavo, avanti ieri non mi ascoltavo, oggi gli arrivo tutto sparato e non ho combinato nulla, neanche sollevato l'ho con la radio da sopra il tavolino. Sono più strano, vedo questi là, chissà che si sia svegliato io. Quell'apparecchio mio, allora, vuol dire che era sordo l'apparecchio. Oggi si vede che si è svegliato e ti sento. Ma meglio così, almeno ti sento, Bacchi con Gommino, quando sono qua, dai. Adesso mi sono messo qua e per sentire anche a Marino, Però a Marino con Gommino non lo sento, ma a te ti sento fortissimo. Segnale 2, però la radio è fortissima. Che aggiorni io, Gian Marì? Che aggiorni io stavo modulando su in Cina o io dall'altra parte e abbiamo fatto il questeo, capito? E aggiorni, avanti da qui. Sì, infatti. No, è una cosa di provocazione, io penso, perché non mi insultava mai il gommino, adesso mi arriva forte. E anche lui arrivava forte, come sta arrivando adesso, uguale identico, non cambia nulla. Non c'è un segno in meno, un segno più. Sono quello fatto e mezzo, mio Bacchi. Un fatto e mezzo sono, No, non di più, non va di più questo qua. Sì, però ho visto che mi sente Marino, vuol dire che va bene anche un fatto e mezzo. Io avevi spalato, Gio Marino. Sì, perché ho messo alta una stella, forse per quello. Io avevi spalato come sempre, è una bella modulazione, pulita, limpida, proprio fortissima. Avanti. Bella me! Basta le voci. Ascoltiamo benissimo, avanti, bello bene. Buonasera Marino, ciao Gio Maria, ben sentito. Lui, mister bello, cos'è che stai combinando? Dice che stavi cucinando, po' cazzo, maestro Bacchisio. Ma sempre cucinando stai? No, mi stavo mangiando una pasta. Capito? Ah, che le paste mangia Bacchi, Graziano. Aspetta, buonasera Graziano, mi hai salutato, ti saluto io. Tutto coso, pasticciolo, che non sei altro. Lui mangia pasta, per quello si dimentica di salutare, capito Gio Maria? Sta ancora assaporando le paste. Ah, Bacchisio, oggi fa fette fresche con salsiccioni. Buonareddu. Che siamo, non sei a dieta. Perché è a dieta? Io pensavo che era a dieta, boh. Devi stare un po' a dieta, Grazia, non lo so, io avanti da chi? Sì, questo Graziano non ne combina una giusta. Paste, colomba, uova di Pasqua. Ma che Gio Marino che mangia anche uova di galline, non solo uova di Pasqua. Ma chi? Io non so nemmeno cosa dirle. Perché dice tanta di quelle cose, ma è tutto vero quello che dice lui, sì o no? Ah, bisogna accertarlo, adesso dice c'ha papette fresche con salsiccioni. Ma che salsiccioni è però? Pizza la Nutella! Pure la Nutella mangia. Vedo un po' tu, capita. E noi gatto senza mangiare, famati gatto, e lui va sempre mangiare. Ma niente. Sempre. Marino, riprendi, digli qualcosa tu a questo Graziano. Che tu da campagna puoi dirgli quello che vuoi. Come posso approfittare, Graziano, lascia la Nutella. Ma quasi ma niente, la Nutella in mezzo alla stazione è fatta, così è. No, a merenda era quella, con le pasta. Con salsiccione e le favette mi ho mangiato le ciliegine di Ravanetti, dozzi mintati, imbucciato e unto nell'olio d'oliva con il sale. Buona redda! Capito, olio d'oliva e con il sale, le ciliegine di Ravanetti. Ma io si mangiano quelli sbucciati, si mangiano buccia tutto, mi. Sino che sono stato a Cianno. Oh, chi la buccia mi verniciava a burro rimane, rui. E ora in buccia è bianca bianca. Buona redda, dozzi mintarda. Ah, e te si bacchi. Pure la ravanella si mangia. Sì, ma adesso non mi piace la ciliegina, mi piace la ravanella longa. Oh, ciliegina, me, nasce un bel dubbio a tocci, chivi. La giubbetta lavata, boccia a buio, è curata e poi si è rubiato. Pronto all'uso. Cassia, ma se vedi, fa vedere ma niente, se così è. E allora, mica ci sei arrivito. Ma ne stai due strisce, non due, no, quattro strisce avanti da qui. La vanella, salsiccioni, favette fresche, che cosa, Nutella, paste. Aslo è Graziano, non vai aslo di mangiare. Questa teglia la fai negula, ziota è normale. Capito Gio Maria, io andiamo per la fai negula, ziota è normale. Dunque si può mangiare. No, io non la vedo, ma che è fredda, mi. Oh, yeah. con il peperoncino. Domani sta tutto ficciato, Graziano. Come al solito, Graziano, quando dice a me la fane, mi piace, ma preferisco più la pizza, più la pizza, la fane la posso solo assaggiare, avanti, Giovanni. Ehi, via, sempre, comunque ti ha calpestato, Graziano, Maria, poco qua, non sono io che stavo parlando, eri tu e ha parlato anche Graziano, sempre sopramodulenti, Chi sei tutta la cizione, la pavetta fresca, si ha mangiato stasera, per carità. Riprendo un attimino, Bacchi che è venuto a gente a aprire la porta. Ok, Giovanni, attendi pure. Così è Graziano. Noi non ci siamo invitato però a mangiare né zafaniti, né la favetta, né le paste, né la Nutella, né la ciliegina, e anche il ciliegione. Avanti, Marì. Non ci vuole a me a te, Bacchizzo, Graziano. Ma chi a me a te non ci vuole, Graziano. Ha detto che mangiamo troppo per quello, e dopo non avanza lui, vero, Graziano? Veramente, Gian Maria ha detto se lo invitavo, gli ho detto a venire che c'era un posto vuoto. Non si è visto e mi ha mangiato un burrusoio. Povero Gian Maria. Ah, ti Bacchizzo. Sì, hai invitato Gian Maria, se ne invitava altri due, si mangiava pure uscire dell'altri. Abita un poco quanto mangia il suo Graziano. Era abusata da lanza a me, l'ubiato soglio. Gli diceva, signora Nagana non li mangia, mangio io, non ti preoccupare. Faccia un poco da me e un poco da l'ubiato soglio. Ti ho dito tutto. Allora faccio un taglio a chi lo fa pazzia. Mari, ma non ci sei più. Mari, non mica non ti sente Bacchizio. No, Mari, non si è mancata la batteria, Grazia. La batteria si è scaricata, Bacchizio. Sì, ma la batteria ti è mancata. A me, a te, non ti sentivo. Perché ti avevo chiamato a nulla, hai detto che morendo ti è mancata la batteria. È così. Io stavo dicendo quanta cosa mangia questo Graziano, caro, non si può invitare. Ma stanotte c'è cosa, la fainè con le cipolle, dunque un salto ce la facciamo. Ma io a me mi viene a vista però a me. No, salotti, Rulocco, mio te è occupato, non c'è più posto. Non c'è più posto? Ebbene, non possiamo mettere un tavolo nel pianerotto delle scale. No, no, che è tutto impegnato, pure un pianerottolo. Ma la è tutto impegnato, vacca. E cosa si può fare? Nudo, allora. Aspetta il prossimo turno. Altro giro e altra corsa, così è, Grazia. Allora, una corsa al mese. Diglielo tu, Mari. Marino, hai sentito, Graziano? Ehi, a Bacchizio stava parlando Marino e l'hai soprammodulato. Ma non lo senti a Marino, Bacchi? Ehi, ho risposto, adesso non l'ho sentito, no. Adesso non si è abbassato, allora. Bacchi, ogni tanto manchi, non ti sentiamo ogni tanto, ormai. Manco, e allora manchi anche tu, perché a momenti ti chiamo e non rispondi. No, è proprio, io, la batteria mia, è impossibile che la mia è collegata al coso, all'alimentatore, Bacchi, dunque, anche se non c'è batteria è sempre in corso, sempre in carica, dunque, non è un problema, prova adesso, dai. E allora è la propagazione che va e viene. Esatto, hai capito, Bacchi, al prossimo turno tocca a noi, dai, adesso è tutto impegnato, anche se ne dopo l'ascensore che ha riempito, avanti, grazie. Già l'ho segnato nel calendario per il prossimo mese. Va bene, grazie, prepari. Sì, quando arriviamo al mese, se ci arriviamo, vediamo. Ragazzi, arrivi prima. Il 26 fa però, io posso essere il 26 dell'altro mese. Neanche ci penso. Avanti, da qui. Sì, Maria, stavo dicendo a Graziano che mi prenoti per il 26 dell'altro mese. È il compleanno, dunque mangio gratis. No, il 26 c'ho altri impegni, devo vedere le circostanze. Male. Sono mese, grazie. Ah, sono impegnato il 26, dimmi che giorno. Allora. Ah, dipende, bisogna vedere. Prima possiamo arrivarci. No, no, no. Non ci siamo più. Ehi, non lo so, bisogna vedere, là, com'è la questione. Sì, bisogna vederla, bisogna espulsare allora. Marie, non c'è posto, non... forse per estate ci sarà qualche posticino. Bisogna vedere, ma chi la caccia cosa rende? Quello è anche, bisogna vedere cosa rende. Cornacchi e volpi. Ma intanto sparisci, ma chi? Sparito sono. Aspetta, ti stavo chiamando. Proprio zero, proprio zero. Boh, io non ti sentivo per nulla. Aspetta che cambio radio a vedere un po'. Così è, grazie, non prendo da rifanno, perché a noi tocca. Allora, ma la radio di Bacchisio bollendo si sta. Oh, si sta bollendo, via. Aspetta, mi sistemo. Avevo l'apparecchio, oppala, eccolo qua, a posto. Così è. Eia, eia, eia, c'ha bugia e fegni, c'ha la so. E che ne sono, il 7 e mezzo, no? Eia, la zia è fea, eh. Aspetta, mi assento un minuto, vado a guardare la stufa. Ehi, sono qua, dai. Ehi, hey, sei entrato? E allora? Hai cambiato, Bacchi? Grazie, mi ascolti? Io sì, a me mi ascolti, Bacchi. Ehi, adesso sto usando il fratello del tuo, va bene? Va benissimo, anzi, è anche migliore la radio. Si pulita, eh? Va benissimo, Bacchi. Oh, Bacchi, aspetta che sta con la... provo la trentena adesso, questa qui è quella tua. Guarda, ma il segnale ma puoi dare, sì, più o meno. Io un po' se me lo dai il segnale qua, parla. Guarda, in questo passaggio, uno, due, tre, prova. Adesso stacco questa con l'altro, dai. Questo è fondo scala. Non c'è altro spazio al mio. Ok, aspetta, sta con l'altro, un attimo. Graziano, sì, sì. Guarda, in questo passaggio, Bacchi. Uguale, non cambia niente. Non cambia nulla, la stessa? Il segnale è lo stesso, sempre fondo scala. Se sbatte in fondo, non torna più. Ah, allora, come segnale lo stesso, dai. Questa sto usando sempre la sua antenna, capito? L'altra era la tua. Ok, migliorosi, dai, Graziano, si è spostato e devo controllare la stufa, se non sbaglio. Eia, sogno qua! Paura, avanti, Graziano, hai controllato, sì. E tutto che, tutto che, chi è entrato? È stato Babbo Natale, vedi Bacchi, con questa qui adesso Graziano sente ancora più forte, più ribomba proprio la modulazione. Bene, mi senti? Sento a Bacchi con questa qua che ho con me trentenna, ti sento ancora più forte come modulazione, capito? A me! Allora, hai sentito Bacchi? Bacchisio? Bacchisio, caduto, sì. Caduto solo, mi senti? Io già ti sento, Marino l'ha sentito. Già ti sento, avanti. Marino, ti stai portando QRM appresso adesso. Poco hai pulito, pulito, bello, limpio da chi ha. Avanti, grazie. Eia, eia, cosa hai cambiato? Radio, Bacchi. Io ho cambiato radio, capito, ho cambiato radio. Quella stava bollendo, non so perché. È un po' di giorni che si mette a cucinare la pasta. È stazionario, no? Il PL è caldo. Mia, il PL è caldo. Stazionario è 1-1. Attenta, cuffa! Ehi, Luca, c'è Bacchisio e Marino. Stazionario è 1-1. E allora c'ha problemi la radio. Si caldi così un bel... attaccali una ventolina. Il ventolone li mettiamo, non la ventolina, un ventolone ci vuole. Luca, avanti. Ehi, ehi, a ventolone, se volete il ventolo le vedo io, se vi servono, volete il ventolo a 12 volt. 12 volts, boh, non so come viene detto, se 12 volt o 12 volts. Comunque ne ho più di una, se vi interessa, Quello è regalo, se vi servono. Ah, ma chi ci serve? No, io il gas ce ne ho due. Ma io ce l'ho la ventolina piccolina, quella di quella radio che si è bruciata, ce l'ho, quella a 12 volts. Piccolina piccolina, 4.5 x 4.5, non di più. E attaccagliela quella radio dietro. No, quella radio non vuole attaccata alla ventolina, vuole attaccata a terra. Ah, non ne serve più, già serve, gli dà una revisionata. È una rastrellata. Quello lì l'avevo pagato 49 euro, adesso 12 o 13 euro. Magari una pizzeria, attaccagliela la ventolina. Adesso vediamo questo, se scalda questo. Vediamo un po' la situazione com'è. Oh, può darsi che va freddo, si è acceso la stufa, mia Maria, grazie. Allora, c'era per la castagna a Trento. Ho cos'è di castagna e cosa? Marino, avanti. Oh, io la fre castagna e grazie. Non sono le castagne, no. I lumacconi sono, stanno cucinando, grazie. I lumacconi. Non si piace il lumaccone di pieno, grazie. Ma non ne posso mangiare, ma viene intossicato, mangio. Vuol dire che mangiato dopo, ne hai approfittato. Avanti, Luca. Luca, mangiando sai. Luca impegnato. Marino, ma il tuo scalda la radio, Marino? No, non scalda, da chi? Non scalda nulla proprio. Adesso ho messo il fratello del tuo, quello cinesino, è già un paio di giorni che scalda. No, la mia non scalda. C'ho la mano nel piede adesso, è freddo. E allora c'è qualche malanno? È ancora caldo, Qualche malanno c'è questo qui? Non sta scaldando nulla proprio, è freddo. Sto utilizzando la centenna, non la tua, l'altra, figurati. Avanti, grazie a Neddo. Dunque, il lumaccone, il soffo, l'hai mangiato e ti ha fatto male sicuramente, dai. Dunque, sei allergico. E la manzetta, puoi mangiare? Nulla, ho provato, ma coraggio ghita. Ho provato a distanza di anni assaggiare una lumaca e mi stava facendo male. Ho provato con le lumachine, due o tre, ma e mi stava facendo male, dunque non ho mangiato. No, mi stava portando, mi è intossicato, non ne posso più mangiare. Mi stava bruciando a ripidare, tettaru, secco, sbavando come una lumaca. E mi la giuica burbea la buca. Guarda che brutta con le cose delle macchine, devi stare attenti, in effetti se ti ha fatto male non toccare più, ogni male vecchia. Al mio vicino di campagna, vabbè, quello lì diciamo che è un ingordo, no? Tantina, dalla mattina alla sera sempre sta cogliendo le macchie a fianco al recinto mio, a fianco del gettolino. Non vai manco la macchia. Ma lo sai quanto quanto l'ha fatto? Beh, lo sai che un giorno l'hanno ricoverato che stava vegettando sangue dalla bocca e da altre parti e... Era morendi. È rimasto quasi più di un mese ricoverato, ma sta male, proprio a male. Eia, e così ha fatto a me? Abbiamo fatto una lumacata, diciamo, va, nella villa di Marcito, già lo sai dove. C'erano lumache, cocuy, mosette, cucinati tutti di vari modi. E a me mi ha fatto male, la buca, allora se non l'ha fatto nulla, solo a me ha crebato. Sicuramente tu in quel momento eri indigesto, succedevi, capita la persona indigesta che è debole e ti ha crepato. Ti ripeto, al mio vicino c'è la vita brutta, proprio, tu non sai la roba di sangue che c'è in terra, una cosa paurosa. L'ha imbigliato per un pelo e più di rimasto un mese ricoverato e stava un bel male, proprio un bel male, avanti da chi? Io lo stesso, mi ha fatto la matessa in goccia e mi ha crepato brutto, me l'ho vista brutta. Quella volta era la lumaca, un'altra volta mi ha avvelenato il formaggio, c'era il verde rame, io l'ho mangiato e mi ha crepato. Il verde rame devi vendere a Marcito, non mangiartelo. E dunque anche il formaggio non lo puoi mangiare, o no? no, quel pastore che me l'aveva venduto, non l'aveva... lavato bene il coso e c'era il rame in mezzo al formaggio, mi ha avvelenato praticamente. Questa olio, bisogna stare attenti, non vedere il danno. Poi con la patologia che c'hai, peggio ancora, basta un nulla che ti crepa. Avanti, da chi? Quello era il paiolo, Graziano. Quello, il paiolo, non era stagnato. Era del rame, dunque non era lavato bene e ci è passato un po' di rame in mezzo al formaggio. Il paiolo di rame va via, che io andati a Purù, a casa sua, in campagna, a Usilo abitava, a metà strada, tra Usilo e Sassari, che su Bassoni, e andavo a casa sua a prenderlo. Tu vazia spesso il formaggio, di tutto vazia. E la volta mi ha crepato a me, dalla volta non ha più pigliato da imbecille. Perché poi sono andato quando sono uscito all'ospedale e l'ha fatto anche altre persone che avevano dato quel formaggio lì, a chi non aveva pulito l'ubbaggiolo in rame che ha usato, capi? E a me mi ha crepato subito. E quello verde del rame è veleno. E già lo so che è veleno, cioè. Ma avvicinate un po' che baravi. E quello va bene se vuoi ammazzare una persona, gli grattugi un po' di quel formaggio nella pasta e l'ammazzi. Con un po' non l'ammazzi, io me ne ho mangiato un bel pezzo la busta di sugaggio. Vabbè, cosa sei stati? Due, tre pezzi, cante grossi, cante rudito. Lucio Bacchisio, dov'è? Signor Bacchisio, buonasera a tutti quanti. C'è Graziano e Marino, il sottoscritto. Avanti, riprendi ancora. Sì, buonasera a tutti quanti, ho detto. Andave, cata, che vi devo sentire io? Ma squallo, squallido! E poi tu non mi hai neanche risposto, ma vieni, in giro io! No, in secondo rado, anzura, in secondo rado. Già lo sai da dove? Ma che sta palle sta facendo? Quella ce l'hai tu, la racchetta! E allora? E raccogli le belle, le palle, ho trovato 6-7 palle fuori dal campetto, me lo pensi? Ma niente, ne va chi, a chi su? Stasera se ne è pisato male, se ne è pisato. Andave là. Stava mangiando, Graziano, l'hai disturbato tu. Ma niente, lomaccone, lomacchine, lomachette. Capito, hai, dottore? Oh, yeah. E beh, perché non te l'hai portata la radio appresso, con quell'antennino, se ti ascoltavamo? Poi, che torrendo da Uda, non piglia nulla, chi su? Fuori un po' da Romacone, la piglia. Ma a cosa? A 50 non ricevi neanche a 50 chilometri. Ma c'è già sentito gli altri, comunque, io... Tore. Bene, là, che se ricevi da... Sì o no, un chilometro, non di più. Esagerato, ma vero sì. No, ci vorrebbe un antennino più grande. Ti piace la manzo, va sulla cappotta, sia a posto. Sì, ma quello è bello però, è ben fatto, proprio di lusso. Infatti, ci vorrebbe una di quelle belle per prendere bene. Ma non so neanche se ci arriva tornando da Ubbia. Dottore! Che c'è? Naturalmente chi sullo sceriffo lo chiamava, ne sta zero ratti dozzi. Va via un califone, va via l'antenna longa, attaccata al manubrio del califo. A te la ricordi? Chi su di fuori va a pironghi, mi? Sì, ammiramento. Ma chissà che ci butto io. Forse era meglio che mi usavo una 27. Era un bel camionisti. Quello è. Allora si portava la 27, usavi la 27, boh. Marino, ma cosa sei dicendo oggi? Non hai ascoltato, grazie. No, entra decido, boh, cosa ha detto? Ti ho detto che quello che andava al califone con l'antenna sul manubrio e la batteria sul portapacchi era Breckenbaule. Già me lo ricordo, quel tipo lì, già non conosceva a buio. Passavamo spesso vicino dove c'era Radio Oasi prima, nella salita lì in via Colombo. Spesso a volte saliva lì, veniva anche lì a Radio Oasi, parecchie volte. Che era la tua cosa? Faccio vita. Marino, conosciuto la vivi? Non c'ho presente, sinceramente, Bacchi, non c'ho presente, magari, non ce l'ho presente sinceramente, ma non è della Teolce, no? Sì, c'era la Teolce, però non so dove, però abitava la Teolce. C'aveva quel califo, era un tipo con i beni brizzolati, mezzo grigi, con i baffi, tipo manubio. Sì. Non c'ho presente, perché magari l'avevo visto. Caput, avanti Vittore. Forse con quella della 27 arrivi a Biobè, arrivi ai Noghi. Ma non mi ha portato nulla, non mi ha portato. No, nulla. A mano in tasca sei andato, guarda me. Ci sono crescendo pure impresa, ci sono crescendo. Impresa Iraki? Ci sono messi dall'una e mezzo, basciata. Poi mi ha toccato pure Gurri. E a chi è aggredito la nave? Oh, aereo. In aereo doveva partire alle 4:05, però ti devi presentare almeno 2 ore prima lì. E ho l'aereo, ho sbagliato sistemazione. E vabbè, quello sì, bisogna andare sempre prima. Bisogna andare sempre prima. Avanti, grazie. Non c'era da Alghero l'aereo, no? Da Fertiglia. Papo da Olbia si deve avvarare. Da Olbia no, Arira, da Olbia. Cos'è? Quello diretto oppure Pascalo? Aereo che c'è Olbia Londra. Ah, il diretto. Non c'è più qua da Fertiglia, prima c'era. Però faceva scala a Milano. Prima. No. Già c'è Alghero Londra, però arriva nell'aeroporto quello molto lontano. Io sapevo che fila. A chi? Bene, poi l'ultima volta l'ha preso da Alghero ed era venuta a Alghero, che era andata mia figlia a prenderla. E io. Ah, bene, ma adesso ci sono altri. Un altro nome di aerei, Meridiana, mi pare non ve più, dice che ci sono più baratti. Meridiana ha ciambato un nome, la cosa c'è sempre, però ha ciambato un nome. Ah, così, io ne aiuto di magna burichivi, riprendi Bacchisio. Io, grazie, lì c'ho l'aereo che ho io lì, l'ho affitto, capito, e fa Olbia Londra, però fa scalo a Roma, passa da Roma perché deve prendere un po' di polvere bianca, e poi direttamente a Londra, e poi da Londra quando ritorna per Alghero è carico. Tanto che è passato, mi video è passato, che dice che era pieno le cose, l'aereo c'era pieno. Oggi è inizio di settimana, poi oggi c'è anche la partita dell'Italia lì a Londra. Ma anche se vai non riesci a vederla, quindi devi avere un biglietto pronto e arrivi in TV puntuale. Quante ore sono questo tore oggi a Londra? In 2 ore e mezzo arrivi lì. E da lì due? Troppo bene sta, vai da chi? Vabbè, anche quello bisogna fare. Bene, signori, io chiedo il permesso di andare in QRT perché mi devo preparare il merendero, è tutto così, la pappardella che devo fare. Bene, ciao Graziano, buona serata. Saluta la signora e a risentirci. Tore, vieni con le patatine, saranno salutissimi. Buon proseguimento di questo ancora. Saluta la signora e anche per Marino lo stesso. Marino, ce la sentiamo. Ciao, stammi bene, saluta la signora e buon proseguimento di serata. Ma chi sia in questo istante, passa in QRT, ascolta il filadino e poi chiudo. Ciao, ciao. Ok. Ciao Bacchi, buonasera, buonanotte, saluto in casa, saluto mio signora, ci sentiamo domani in casa, dai, avanti Tore. Sì, ci sentiamo Bacchi, a domani, ok, riprendi Mari. Ok, Graziano, avanti Graziano. Ciao Bacchi, buona carica, buon tutto, mangia poco, mi raccomando, e lavora molto domani con queste favette, a Saccarreggia arrivi, va ripreddu. Ciao! Ciao, grazie, ciao, vedrai a fine dell'altro mese ti porto le fave, venta a Muri. Ok, ok, Tore, riprendi tu. Sì, riprendo e chiudo io, ci sentiamo, dai, mi seguo drummendi. Ok, dai, ci sentiamo alle prossime, ok, ciao Marino, ciao Graziano. Ciao. Ok, ok, riprendo io, sei stanco, lo so, il viaggio è stanco. Lo so. Bene, ciao, ciao Tom, ben sentito e saluto in casa, ci sentiamo domani. Avanti Graziano. Ehi, ok, dai, ciao Tore, buon riposino, buona cena, a domani, da. E chiudo anche io, tanto saluto, me lo dici, va bene. Ciao Marino, magna bocca, chi ti vecchio dai lunghi, chi si abbassa non mi piace proprio, mi raccomando. Buona cena e buon tutto, a domani, ciao! Ciao grazie, ciao, sono in casa e sabbanza, sto lievitando grazie, sto lievitando, venga di là. Bene, buonanotte, sono in casa, di nuovo, a domani grazie. Beh, anche io più, evidentemente, poi rimango un po' in ascolto, con la presenza. Faccio quello che ascolto e saluto a tutti, ciao! Ciao, ciao! Ciao! Ciao Gufo, dai, ciao anche a Marino, ciao Bacchisio, Gio Maria, buona cena, ciao. Ciao Luca, scusa, non ne sono indicato, ciao, buona cena per te, saluto la signora, la signorina, diciamo, a domani, ciao. Via, ciao ciao, grazie, ricambiato, ciao. Ciao ciao.